presenta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Sta parlando ancora il ministro dello sviluppo economico Calenda. Racconteremo praticamente quasi in diretta varie dichiarazioni, perché riguardano non solo lo stato generale della nostra impresa, della nostra economia, ma anche le telecomunicazioni. Ha detto Calenda che il ritmo è troppo lento sulla fibra, occorre investire altri 3,5 miliardi. Ha ricordato comunque anche i dati congiunturali ordinativi all'impresa, più 9%, gli incentivi 4.0 stanno funzionando, e ha parlato pochi istanti fa anche della vicenda Fincantieri STX. Ha detto Calenda: credo che alla fine ce la faremo, stiamo lavorando a una soluzione buona per tutti. Dicevo, ha toccato anche i temi relativi alla telecomunicazione, visto che ha presentato tutti i dati dell'industria 4.0 alla Camera, e poi l'hanno intervistato alcuni giornalisti. Ha detto fusione della rete Open Fiber addirittura, quindi insomma tutto il ciclo abbiamo già fatto, per cui ha glissato sulla ipotesi in circolazione di scorporo della rete TIM con successiva fusione con Open Fiber, società della fibra che fa capo a Enel, e cassa depositi e prestiti. Ne parleremo, per il resto parleremo anche di Ryanair. Dico anche perché poco fa ne ha appena ragionato Oscar Giannino. Il tema che sta emergendo già ieri, devo dire, emergeva in maniera abbastanza prorompente, non è un problema di solo gestione o disorganizzazione nella gestione delle ferie e dei permessi dei piloti, personale di volo, e quindi uno poteva imputare a un errore madornale clamoroso di Ryanair il non aver gestito questo aspetto organizzativo. No, quello che sta uscendo è qualcos'altro, cioè che c'è una profonda insoddisfazione e tensione sul modello stesso Ryanair da parte dei suoi dipendenti, anche perché, e in questo devo dire che in parte l'ha toccato anche Oscar Giannino, anche perché la ripartenza dell'economia a livello mondiale, ma anche a livello europeo, sta facendo migliorare il cosiddetto mercato degli assistenti e piloti. Quindi le tensioni sono dovute anche paradossalmente al fatto che la crisi del comparto aereo morda meno rispetto anni fa. Dopodiché, da questo punto di vista, è innegabile che se la stessa cosa l'avesse fatta all'Italia, in Italia, oppure Lufthansa, o non per uno sciopero classico in cui incrociano le braccia i piloti o gli assistenti di volo, ma se l'avesse fatta in maniera così disarticolata, dando quasi per scontato che nessuno dovesse lamentarsi, ipotizzando rimborsi ridicoli rispetto al danno, l'avesse fatta qualunque altra compagnia di bandiera, sarebbe stata massacrata. Solo in Italia sono 702 i voli cancellati in arrivo e partenza da oggi fino a fine ottobre, colpite tutte le tratte per quello che riguarda l'Italia. Solo oggi 17 voli cancellati, fra cui un Roma-Ciampino-Londra, domani 13 voli cancellati. Il ministro Delrio è tornato sul tema e ha detto che i 400.000 passeggeri lasciati a terra per i voli cancellati non si fanno sconti a nessuno, il passeggero è un cittadino che ha i suoi diritti tutelati dalla legge, quindi se Ryanair li ha violati ne pagherà le conseguenze, a noi interessa tutelare i diritti dei passeggeri. Anche di questo parleremo, e poi di quanto sta suscitando polemiche di carattere politico, visto poco fa Bersani dire che la norma sarebbe di fatto un condono e un aiuto al riciclaggio di denaro. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ipotesi di una nuova voluntary disclosure, quindi adesione volontaria, per far emergere il nero dei contanti, ossia il denaro cash, che stante le ipotesi nella prossima legge di bilancio vedrebbe una norma apposita, un decreto collegato nel quale fare eventualmente confluire, oltre alla rottamazione bis delle cartelle, anche questo nuovo intervento. Non vi è nessuna decisione ufficiale, però oggi sono occupato molto anche il Sole 24 Ore. Da un lato c'è chi dice, attenzione, questo va nella strada del contrasto all'evasione. Ricordiamo che ieri il sottosegretario Boschi ha detto che il governo potrà contare su 23 miliardi di gettito dalla lotta all'evasione, 10 miliardi in più. Quest'anno dovrebbero essere 20, 19 l'anno scorso, quindi in realtà sono 4-5 miliardi in più, scusate. Da questo punto di vista la critica è, attenzione, c'è ancora chi sta tirando fuori la vecchia norma salva Corona, ricorderete Corona fu trovato con migliaia di euro nella controsoffittatura, se non ricordo male, 15 mila euro, vado a memoria ma non sono sicuro della cifra, e da lì la battuta della misura salva Corona. In realtà la stima è che tra cassette di sicurezza e altre forme di conservazione dei contanti, addirittura quello che lo mette sotto il materasso, diciamo, o lo nasconde in casa, vi sia una cifra che oscilli tra i 150 e i 200 miliardi di euro in Italia in contante. C'era anche l'ipotesi di far pagare un'aliquota per la sanatoria e poi obbligare a investire in titoli di Stato senza reddito. Ne parleremo perché, da un lato c'è l'esigenza di far emergere questo nero, dall'altro il rischio di dare una mano al riciclaggio di denaro è altissimo. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Andiamo subito sulle notizie in breve, partendo dai mercati finanziari. Sì, ero stato troppo buono, in realtà adesso abbiamo controllato in regia, nel soffitto di Corona furono trovati 1,7 milioni di euro in contanti, ecco perché del decreto cosiddetto salva Corona, ma in realtà, ripeto, bisogna analizzarlo con molta freddezza, perché da un lato questo potrebbe permettere di recuperare somme importanti detenute appunto in contanti, dall'altro si presta la critica che vale per la maggior parte dei condoni, e questo paese ne ha visti anche troppi, cioè stai facendo un regalo a evasori, in questo caso anche forse alla criminalità, e lì bisogna capire esattamente come saranno stringenti le norme. Comunque allora andiamo avanti. Per quello che riguarda la borsa, oggi poco mossi i mercati, più 0,13 Milano, 0,09% è rialzo praticamente inesistente di Parigi, 0 fa Francoforte, Londra più 0,23%, Dow Jones più 0,10%. Tra i titoli anche qui poche storie degne, diciamo, di approfondimento: Telecom meno 1,50, Moncler meno 1,20, Mediaset meno 1,20, Unipol meno 0,70, come Poste Italiane. Fronte opposto, Biper Banca più 1,90, Brembo più 1,70, A2A più 1,60, Fiat Chrysler più 1,40, Campari più 0,50 come Eni e Snam Rete Gas. Notizie di carattere internazionale. Il fondo sovrano norvegese, che è uno dei maggiori al mondo, ha toccato per la prima volta, a questo punto diventa il maggiore al mondo come fondo sovrano, la quota di 1.000 miliardi di dollari in valore. Il fondo fu avviato nel 1996 ed è stato un successo inatteso senza precedenti. Pensate che la Norvegia ha solo 5.200.000 abitanti, controlla praticamente l'1,3% di ogni società quotata al mondo. E ha detto l'amministratore delegato del fondo: non penso che nessuno si sarebbe mai immaginato di arrivare a 1.000 miliardi di dollari nel 96. la crescita sperimentata è stata stupefacente. Vabbè, se ne sono occupati i nostri GR24 già, ma insomma Toys R, che già era in estrema, Toys R Us, che era una catena presente anche in Italia, molto famosa, di giocattoli per bambini, non solo, era già in bancarotta, raccontavano le sue difficoltà, a questo punto getta, era già in estrema difficoltà finanziaria, a questo punto getta la spugna e va in bancarotta, ha depositato infatti le richieste di Chapter 11. Faccio notare che molti analizzano il fatto come un doppio effetto: da un lato chiaramente l'effetto cosiddetto Amazon, o eBay, ma insomma Amazon in primis, cioè ormai anche i giocattoli si acquistano online assieme a tantissime altre cose, e quindi un grosso problema nel reggere i numeri del fatturato da parte di Toys R Us. E dall'altro però anche fanno notare alcuni aspetti del settore, la concorrenza dei videogame, che hanno spiazzato e rimpiazzato, purtroppo, per fortuna, ma anche purtroppo, però hanno rimpiazzato i giochi classici materiali da parte dei bambini e dei ragazzi. Invece, per quello che riguarda la Brexit, sarà interessante sentire cosa dirà Theresa May a Firenze, che ha scelto come luogo di elezione per rilanciare sulla Brexit. Sarà a Firenze venerdì. Perché lo dico? Perché mentre Boris Johnson oggi da New York ha detto: non ho mai pensato di dimettermi, mentre oggi il ministro, circolavano varie notizie sui quotidiani britannici che il ministro agli esteri, appunto Boris Johnson, fosse pronto a dimettersi per i contrasti con Theresa May sulla Brexit, che Johnson vuole delle garanzie molto dure, che non verrà accettato un conto di divorzio con Bruxelles troppo salato e che non sarà negoziata una sorta di membership con meno diritti sul modello delle relazioni tra Unione Europea e Svizzera. Insomma, la May comunque da Firenze rilancerà la posizione britannica verso la Brexit. Da questo punto di vista, pochi minuti fa Johnson ha detto che non vuole dimettersi, ma le tensioni dentro il Partito Conservatore restano fortissime. Vedremo se verranno placate da questo, così, rilanciare la palla nel campo avversario, nel campo avverso, che dovrebbe fare Theresa May da Firenze. Per quello che riguarda invece le notizie italiane, veniamo alla legge di stabilità, che inizia a, non dico definirsi, ma ad avere materiale e materia per essere poi redatta. Allora, a fronte dei risultati ottenuti dagli incentivi alle imprese che vanno sotto la voce 4.0, oggi in un documento firmato e diffuso prima della presentazione dei risultati con i ministri Calenda, Padoan, Poletti e Fedeli, si scrive che a fronte dei risultati riscontrati sui principali indicatori manifatturieri, nel 2018 verranno rifinanziate le principali misure previste nel primo anno, rivedendo le aliquote e i perimetri degli incentivi, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica disponibili. Quindi proroga degli incentivi, così capisco io, ma aliquote riviste. Padoan ha messo le mani avanti: attenzione, le risorse sono pochissime, il PIL è migliorato ma non in modo tale da allentare i vincoli che abbiamo sul bilancio, non c'è spazio quindi per la soddisfazione, il PIL è migliorato ma siamo solo all'inizio del processo, siamo ancora lontani dal mondo pre-crisi. Alcuni risultati sintetici in termini di PIL, di produzione industriale, di clima di fiducia, di occupazione. Sono risultati, secondo me, molto positivi, ma come non smetto mai di ripetere, siamo solo all'inizio di un processo che ci deve riportare non solo a dove eravamo, ma anche meglio. Abbiamo queste grandezze, quasi recuperato la distanza rispetto alla crisi, ma siamo ancora lontani rispetto al mondo pre-crisi. In effetti l'economia italiana ha percorso un processo complesso non solo negli ultimi 8 anni della crisi finanziaria in senso stretto, ma negli ultimi 20 anni di irrigidimento strutturale di molti dei meccanismi che guidano un'economia. Quindi bisogna fare molti più passi avanti, non c'è assolutamente spazio per sentirsi soddisfatti. E devo dire che in queste parole di Padoan, che continua a ripetere come un mantra, devo dire già al workshop Ambrosetti di Cernobbio, Io personalmente leggo anche la preoccupazione del ministro in vista della campagna elettorale, e cioè se pensate di fare l'assalto alla diligenza e siccome il PIL migliora, gli ordinativi migliorano, tutti gli indicatori macroeconomici tranne in maniera significativa quelli sulla occupazione e disoccupazione, che sì sono migliorate, ma l'abbiamo spiegato mille volte, soprattutto per la fascia over 50 e non per la fascia giovani e 35-44, però il timore di Padoan è che adesso, vista l'appuntamento elettorale, si mollino così, si vada all'arrembaggio della legge di stabilità. Ha detto poi Padoan: il nostro debito è stabile mentre in altri paesi cresce. Sulla iniziativa formazione 4.0, intesi non solo come iperammortamenti e superammortamenti, ma anche come credito d'imposta per la formazione 4.0, è intervenuto anche il ministro Calenda, perché ha detto che nel 2018 le imprese che effettueranno una spesa incrementale in formazione, quindi aumenteranno la fatto 100 la spesa dell'anno prima, la andranno ad aumentare, avranno accesso al cosiddetto credito d'imposta sulla formazione 4.0. Questa è la presentazione dei risultati del piano 4.0. Gli ordinativi sono cresciuti del 9%, stanno funzionando quindi gli incentivi del governo, ha detto Calenda, e che poi, come dicevo, è intervenuto anche sulle telecomunicazioni e ha detto: se non riusciamo a mettere un investimento più significativo, l'obiettivo al 2020 non lo raggiungiamo, e quindi stiamo puntando per mettere altri 3 miliardi e mezzo da fondi non spesi o da bandi meno costosi per accelerare la parte sulla fibra. I bandi sono stati lanciati, ma una cosa è assegnare, una cosa è fare la consegna del collegamento del paese secondo i tempi. È del tutto evidente per noi che se noi non riusciamo a mettere un investimento più significativo, l'obiettivo che era quello che vedete a valle dei prossimi interventi pubblici non lo riusciremo a raggiungere. Ragione per cui stiamo puntando a mettere altri 3 miliardi e mezzo rinvenienti tra peraltro da fondi che non sono stati spesi o bandi che sono andati meno costosi di quello che erano previsti, per rafforzare ed accelerare questa parte qua. Vi confesso che qui il tema non è solamente un tema di obiettivi da raggiungere, ma anche un tema di come ci si arriva, perché è un mio convincimento abbastanza profondo che la concorrenza va bene praticamente dappertutto, ma nel settore delle infrastrutture rischia di creare sovrapposizioni, problemi che non giovano a nessuno, da un lato, e dall'altro perché i bandi sono stati lanciati, hanno avuto una loro tempistica, sono stati assegnati, eccetera, ma una cosa è assegnare un bando, passatela in questo modo, una cosa è fare delivery secondo i tempi. Quindi su questo c'è un faro di attenzione molto molto significativo. E anticipo che poi nella seconda ora del programma parleremo con un imprenditore che si è rimesso in gioco, non è una startup, che si è rimesso in gioco e ha creato una rete, perché molti ci scrivono sulla formazione. Il governo in questo caso, a mio avviso, quello che funziona del modello 4.0 è che da un lato non è dirigista, cioè non dice alle imprese che cosa fare, non fa sul modello francese e anche italiano di alcuni decenni fa, che crea danni perché lo Stato non deve dire alle imprese cosa produrre, dove produrre e quant'altro. Crea le condizioni, cioè se tu sai e hai già chiaro come vuoi svilupparti, noi ti mettiamo in campo degli incentivi, quindi 140% nel caso degli investimenti e 240% sugli investimenti digitali, che ti rendono vantaggioso l'investimento. Però questo vuol dire che nessun imprenditore si mette a fare un investimento solo per avere uno sgravio fiscale, ma se avevi in mente di farlo e hai capito dove vuoi portare la tua azienda, lo Stato, il governo, ti dà delle condizioni di favore, non ti dice cosa fare. E questo vale anche per il fronte formazione. Io non ti devo imporre la formazione, ma se tu hai intenzione di qualificare meglio la tua manodopera e i tuoi collaboratori, ti do una possibilità di farlo a un prezzo, a un costo più basso. Questo significa creare le condizioni del campo da gioco e poi lasciare che i giocatori se la giochino. Se sono bravi, se la giocheranno bene e vinceranno, e se no soccomberanno, ma senza alcun dirigismo. E dicevo, nella seconda ora del programma avremo un caso di scuola proprio su questo, di chi ha lasciato un gruppo enorme, è andato su un gruppo molto più piccolo, un'azienda molto più piccola, ma ha creato una rete sul territorio, non mi voglio anticipare chi è, una rete sul territorio che si occupa anche tra imprese private di fare formazione in accordo con l'università, cioè più virtuoso di così non so cosa ci possa essere, e sfrutta gli incentivi messi a disposizione dal governo in tema di innovazione e anche in tema di formazione. Un'ultima notizia prima del meteo e poi eccolo qua, ti pensavo un po' più serio e indipendente, ma sento che anche tu racconti balle. Allora, per carità, lei mi poteva pensare, ma che cosa, che balle stiamo raccontando? Cioè, sono dati. Comunque, le sofferenze bancarie, vediamo se anche questa secondo lei è una balla. Il dato dell'ABI le sofferenze delle banche sono ancora alte, ma sono fortemente scese a 65,8 miliardi di euro, che è il valore più basso da marzo 2013. I dati dell'ABI fanno riferimento alle sofferenze nette, cioè quelle non ancora al netto delle svalutazioni già iscritte a bilancio, perché quelle lorde, secondo la Banca d'Italia, si attestano comunque a 173 miliardi, comunque in calo di 20 miliardi. Il nostro rapporto come sistema bancario tra impieghi e crediti deteriorati, quindi prestiti che tu non riavrai più indietro, è ancora tra i più alti in Europa, intorno al 16%, contro una media europea del 5, peggio di noi solo Portogallo e Grecia. Quindi c'è poco da festeggiare anche qui, ma da riconoscere che rispetto al 2015-2016, quando il sistema rischiava di non tenere, i non performing loans, quindi i crediti non esigibili, sono calati, e devo dire che oggi il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ha ricordato come sostanzialmente sono diminuiti in 7 mesi del 25%, e ha detto Patuelli, ma in chiave un po' polemica, adesso che sono calate non ne parla più nessuno, solo un anno fa era immaginabile ridurre le sofferenze nette del 25%. Ultima notizia, la Piaggio, che ne parleremo poi in borsa, sale e sale anche parecchio. Per quello che riguarda l'andamento del titolo in borsa, è arrivata a guadagnare oltre il 6%. Perché? Perché c'è notizia di impresa, ha chiuso l'accordo con il gruppo cinese Foton Motor per i veicoli commerciali. È ai massimi da 2 anni il titolo, comunque, adesso guadagna il 5,30%. Praticamente ha firmato un accordo preliminare per lo sviluppo strategico di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a 4 ruote per il mercato cinese, e quindi insomma la borsa su questo festeggia. 349 238 scusate, è arrivato l'amico di quello di prima, sei un ballista nato, il 90% di quello che racconti sono cavolate, vabbè. Però vedo che le ha misurate bene le balle che raccontiamo per arrivare a una statistica così, così puntuale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo, pubblicità, e poi cerchiamo di raccontare perché la vicenda Ryanair non è solo una gestione aziendale che ha preso una toppa, una topica clamorosa, rischia anche di essere la fine di un modello. Anche qui, a chi mi scrive, non la fine del modello low cost, perché EasyJet questi problemi non li ha, bisogna fare anche i nomi. Vueling è una via di mezzo tra low cost, però fa anche raggio lungo. Norwegian è un'altra che si è messa qui è il problema della fine del modello, quasi di dumping rispetto alle altre compagnie. Non ce l'ho con Ryanair, non me ne frega nulla, ma visto che per anni, ripeto, O'Leary si è fatto beffe, ha preso in giro anche sfottendo tutti, se si scopre qualche altarino non avremo nessun problema, e non abbiamo nessun problema a raccontarlo anche su di lui, fermo restando che questo non significa, lo dico a chi scrive, che risolvere o assolvere all'Italia, che i problemi li ha e restano tutti sul tappeto, né significa criticare il modello low cost, che molto ha permesso, qualcuno si ricorda cos'era il modello delle compagnie prima dell'arrivo dei low cost, quanto costavano i viaggi e viaggi accessibili solo a certe fasce o una volta all'anno. Quindi nessuno sta criticando. Altra cosa è capire che cosa di più profondo rispetto a quanto è uscito non stia funzionando in Ryanair. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, leggo alcuni passaggi della bellissima intervista, inchiesta di Cristina Casadei oggi sul Sole 24 Ore. Su Ryanair, a dimostrazione che non è solo un problema di organizzazione, all'inizio sembrava che avessero sbagliato a fare l'organizzazione delle ferie, una roba da proprio così, da turni, diremmo qui a Radio 24, non è esattamente così. Allora, le mie ferie un mese all'anno senza ricevere alcuna retribuzione, la malattia per un giorno, basta l'autocertificazione, oltre serve un certificato in lingua inglese. Come vengono? Allora, la Norwegian Airways, altra low cost, ha siglato un contratto del trasporto aereo italiano, cioè ha aderito alle nostre norme, al contratto di lavoro nazionale, e quest'anno ha assunto 140 piloti provenienti da Ryanair. Quindi il problema, da quello che capiamo, non è solo di una cattiva organizzazione dello scarico ferie dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea, è il fatto anche che i piloti siano sempre di Ryanair in sofferenza. Perché? Appena può uno se ne va, ricordano alcuni piloti anonimi sentiti dalla collega. Fino a poco tempo fa il mercato era fermo, adesso si è riaperto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro italiano non c'è, neanche i sindacati, ma sotto quale contratto lavorano? Allora, intanto è difficilissimo saperlo, perché ogni pilota o assistente di volo che lascia Ryanair deve firmare una lettera di dimissioni in cui dichiara che non fornirà alcune informazioni sul suo contratto di lavoro. Va bene, ma una volta superata la selezione, la maggior parte dei piloti deve aprirsi una società in Irlanda, una limited, può essere anche in più persone. Si viene assunti poi attraverso un'agenzia interinale. In realtà praticamente sei una partita IVA in cui percepisci un rimborso spese per ora di servizio schedulata e volata. Anche qui un po' strano che un pilota possa essere un lavoratore autonomo. Ripeto, o lo facciamo in tutta Europa, qui torna il tema della web tax dell'Irlanda, il Lussemburgo, cioè non puoi avere una concorrenza del genere per cui in Francia, in Germania, in Italia sei obbligato, in Spagna, ad avere un rapporto stabile anche di tempo determinato, ma insomma con tutte le tutele sindacali, e lì tu sia una partita IVA che apre una limited, una società a responsabilità limitata in Irlanda. Quanto si guadagna? All'inizio 20 euro all'ora, poi 50, la forchetta varia dagli 1600 euro lordi ai 10.000 euro lordi, ma chi arriva ormai alla parte più alta della carriera di pilota. E la cosa su cui noi ci stiamo un attimo interrogando è dove pagano le tasse e i contributi, perché? E l'assicurazione in Irlanda, perché dici la compagnia ha sede lì. E qui stiamo tornando al giochetto di Facebook, di Google e dei vari Twitter. Ok, la compagnia ha sede lì e lì paga le tasse sul lavoro, ma i lavoratori che hanno in base un aeroporto italiano come un aeroporto spagnolo, un aeroporto tedesco, ovviamente vivono lì, devono risiedere nei pressi della loro base, mai più li fai arrivare dall'Irlanda per fare un Milano-Roma o un Bergamo-Catania. E questo è il giochetto, tant'è che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che Ryanair non può imporre la legislazione irlandese agli equipaggi che sono basati in altri stati membri. Da qui è crollato il castello di carte. Quello che ci interessa capire con Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E gli ascoltatori, quando sentono il nome Fabio Pavesi, capiscono che c'è già una rogna. No, lo dico con massimo rispetto, che qui quello che si sta delineando è che rispetto alle sue concorrenti, non ad Alitalia che ha tutti i suoi problemi, ma rispetto a Norwegian, a EasyJet, a Vueling, vado a memoria con i nomi, Ryan fa del dumping anche rispetto a loro. In che modo? Ma è molto semplice, lo dicono loro nella presentazione del bilancio, cioè sono loro a scriverselo, dicono che la media di un biglietto di Ryanair, la media ovviamente, è di circa 50 euro. La media di un biglietto EasyJet è 77, Norwegian 78, Air Berlin 115, che è fallita, fino ad arrivare ai 200 di Lufthansa. Ecco, però il biglietto è il più competitivo e uno si chiede, sì, ma se fai le tariffe così basse, dov'è che fai i guadagni? Anche perché ricordiamo, Ryanair è la compagnia più profittevole in Europa, anche tra le low cost. Solo due dati per dirvi questo miracolo di redditività. Ryanair fatturava 3 miliardi nel 2010, oggi ne fattura 6,6, quindi li ha raddoppiati in 7 anni, ma gli utili sono passati da 300 milioni a 1 miliardo e 4, sono aumentati di ben 5 volte. Il personale costa solo 633 milioni su 6 miliardi e 6, a casa mia vuol dire meno del 10% dei ricavi. Non c'è nessun operatore di voli, tantomeno fra le low cost, figuriamoci sulle compagnie di bandiera, ma neanche nessun settore che non sia l'acciaio, dove il costo del lavoro è così basso rispetto ai ricavi. Ecco perché parliamo di dumping, perché la stessa Ryanair ci spiega che su quel biglietto medio di 50 euro il costo del lavoro degli 11.000 dipendenti vale solo 5 euro. Cioè Ryanair su ogni biglietto che stacca paga per i suoi dipendenti 5 euro su 50, vuol dire che gli altri 45 servono alla manutenzione, insomma il costo del lavoro è più basso della manutenzione degli aerei ed è il più basso in assoluto rispetto agli altri. EasyJet, lo scrive sempre Ryanair a confronto, su quel biglietto da 50 euro il costo del lavoro ne vale 10, cioè vale il doppio. La Norvegia, anche adesso ha aperto linee a lungo raggio, su quel famoso 50 euro a cada uno paga 15 euro il costo del lavoro, cioè il 30%. Allora dietro al miracolo di O'Leary, che si permette poi di dire all'Italia troppi dipendenti, è un carrozzone, è stato esaltato agli analisti, c'è una sorta di, come dire, turbocapitalismo, nel senso che, come dire, molto, molto avido, perché teniamo conto che Ryanair nella sua politica fa i buyback azionari, cioè ha talmente tanti utili che si compra le sue stesse azioni. Sì, però ma qui uno si chiede, non poteva pagare un po' meglio i suoi piloti, o quantomeno adattarsi alla concorrenza normale? Punto di domanda. Perché questo è uno scivolone pazzesco per O'Leary, è un autogol. Sì, però guarda, io voglio essere ancora più netto, vediamo se riesco a tenere in un paese guelfo e ghibellino, sempre manicheo, una linea mediana. E così rispondo anche a qualcuno che mi dice: ah, adesso scoprite la concorrenza. La concorrenza la difenderò sempre, non abbiamo mai difeso la concorrenza sleale, valeva per Uber quando operava fuori dalle regole nazionali, vale anche per Airbnb, abbiamo fatto intere puntate per dire benissimo, Airbnb non può essere una scusa per chiuderla, il fatto che soffrono gli alberghi una stella, due stelle, però attenzione, Airbnb deve pagare tasse, perché sennò non ci capiamo più. Il che poi non vuol dire che chi gestisce un albergo, una stella, due stelle, non debba interrogarsi sul suo futuro nel mondo digitale e della rete, in cui andrò a trovare magari un bed and breakfast più facilmente che l'albergo due stelle. Ma non esiste che, siccome sei digitale, tu esci dalle regole. Vale per i colossi che pagano cifre ridicole rispetto a un artigiano, un commerciante, un imprenditore che lavora e opera in questo paese, colossi del web. Vale anche per la, diciamo, il capitalismo diffuso dalla rete. Benissimo Airbnb, permette di arrotondare a molte famiglie, permette di sviluppare un turismo diverso, di intercettare altri flussi, paghi le tasse però, le tasse che decide lo Stato, ma paghi le tasse, non puoi andare in concorrenza fiscale, così come per i colossi del web. In questo caso, benissimo le low cost, all'Italia è un carrozzone, secondo me, ahimè, sono state sbagliate tutte, abbiamo parlato 25.000 sì, volte di Alitalia, tutte le mosse sono state sbagliate, che dura 20 anni. Anche Etihad ha sbagliato le mosse strategiche, certo. Quindi nessuno sta difendendo Alitalia, tant'è che stiamo dicendo Norwegian, EasyJet e Vueling, per citare le tre più conosciute assieme a Ryan in Europa, ben vengono. Il problema stai facendo, e quindi secondo me Fabio, il punto non è nemmeno perché non li paga un po' di più, uno paga quello che, come mi scrive qualcuno, se uno vuole andare a lavorare per Ryan accetta questo. Il problema è se tu fiscalmente stai facendo anche concorrenza sleale, perché se tu mi dici che l'operatore che parte a terra Orio al Serio, che abita vicino a Bergamo, è assoggettato al regime fiscale irlandese, questo non è più essere bravi bei e fotomodei, ma è essere, fare concorrenza sleale. Su questo vorrei capire che cosa può fare la Commissione Europea e perché Ce ne siamo accorti solo adesso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dice a 7,50 minuti, sì, vale anche per il mondo dell'autotrasporto, quando la concorrenza è corretta è una cosa, quando tu hai, e ne abbiamo parlato molte volte, camionisti dell'est che senza rispettare quello che sono i vincoli della legge italiana vanno a fare dumping, delle volte anche presi da imprese italiane di autotrasporto che fanno contratti rumeni e camionisti rumeni e fanno finta che questi vengano dalla Romania, in realtà li usano per spedizioni locali. È lo stesso discorso, va bene la concorrenza ma tutti rispettino le stesse regole. Fabio Pavesi, perché ce ne siamo accorti? Molti mi scrivono, questa è l'Europa che ha maglie troppo larghe, in effetti non è neanche sbagliato, perché ce ne siamo accorti solo adesso? Perché il successo evidentemente ha oscurato questo, scusate il gioco di parole, questo gioco oscuro, nel senso che O'Leary era ritenuto un genio, perché, ripeto, il confronto con EasyJet è veramente esemplificativo. Cioè EasyJet fa poco meno dei ricavi di Ryanair ma produce 250 milioni di utili, bella cifra, Ryanair ne produce per 1,4 miliardi, questa è la proporzione. Cioè Ryanair ogni 100 euro di ricavi ne fa 20 di utili netti, EasyJet ne fa 10, cioè la metà. Quindi c'è un tema di gestione aziendale compatibile, cioè lui ha aumentato i passeggeri di ben 4 volte, oggi porta 100 milioni di passeggeri, ne portava 30, 10 anni fa, e però il personale è rimasto più o meno lo stesso. E allora, ovvio, questo miracolo di successo non si capiva da dove veniva. Ecco, una delle spiegazioni è proprio quella, cioè questa tenere così basso il costo del lavoro per essere più profittevole rispetto agli altri. Però poi succede quello che è successo, improvvisamente si trova a corto di personale perché ha aumentato a dismisura le rotte e i volumi, mantenendo più o meno il personale agli stessi livelli. Questa è una scelta scellerata, si rivela una sorta di boomerang e spezza un po' il mito di O'Leary come grande capitano d'impresa. Questo è successo. Chiudendo sulla vicenda in sé, adesso guardate che io non uso il schiavizzare i lavoratori, a me interessa il rispetto della normativa vigente nel paese in cui operi. L'Olanda ha una sua normativa sul carico fiscale e lì infatti ognuno opera. Se l'Italia ha un contratto nazionale, tutti, vale per gli autotrasportatori, e che non è solo il contratto, significa anche le tutele, i contributi, le tutele di sicurezza, perché qua parliamoci un attimo chiaramente. L'autista dell'est che ha guidato un numero di ore da noi ritenute assolutamente insalubri è anche un danno per chi sta in autostrada. Il pilota, diciamo, adesso non voglio arrivare a dire null'altro, però le norme esistono a tutela anche dei consumatori, dei clienti degli aerei, di chi va in autostrada. Non è che esistano solo per tutelare la categoria o le associazioni di categoria, ma chi se ne frega. Esiste un principio civico. Un altro paese è molto più giungla su questo, selvaggio, benissimo. Il problema è quando operi e fai i soldi in questo paese. È lo stesso principio della web taxation. Guardate, tu fai, sviluppi il volume di traffico aereo al serio, che è il principale hub italiano di Ryanair, lo sviluppi lì e poi la legislazione fiscale, la legislazione sul lavoro è quella irlandese. E non esiste così, non esiste, perché allora sarebbe come dovrei dire a Ryanair: ok, quando sviluppi traffico a Dublino ti metto la legislazione italiana, vediamo cosa fai. Come si chiuderà questa vicenda, Fabio? Beh, c'è un danno d'immagine. Ieri in borsa il titolo era sceso molto. Vedo che oggi tutto sommato non ha perso granché, però c'è un problema reputazionale a questo punto. Cioè immaginate chi si trova nell'incertezza o cancellazione di un volo di una compagnia che si era ritenuta affidabile. Probabilmente gli analisti prenderanno un po' le distanze e questo modello degli utili a tutti i costi verrà forse ridimensionato, e quindi entrano un po' in un cono d'ombra Ryanair. Poi la Corte UE, vedremo cosa deciderà su questo trattamento fiscale di favore. Ricordo, EasyJet è inglese, Ryanair è irlandese, EasyJet probabilmente Vueling è spagnola, Wizz Air è ungherese addirittura, e Norvegia è norvegese. Ecco, tutte queste compagnie hanno più o meno lo stesso costo del lavoro. Ryanair era l'anomalia assoluta, adesso capiamo anche perché. Il racconto della collega Casadei è inquietante, cioè la partita IVA per pilotare un aereo, c'è un problema anche di garanzie del consumatore. Ecco, quella è una giungla. Ma io ricordo inchieste sui colloqui di lavoro per gli steward, in cui qualcuno rivelava dopo col colloquio, che doveva pagarsi la tuta, sì, lui che la paga, ma il tutto primo bene, mese questo gratis. Cioè, uno fa selezione, il problema, ripeto, è la normativa del paese vigente su questo. Intanto non faccio altri commenti su Ryanair. È vero però che c'è un silenzio leggermente assordante della Commissione europea. Non ci possono essere 400.000 europei a terra mollati così, ha parlato il ministro Del Rio, ma vorremmo che da Bruxelles qualcuno si svegliasse e dicesse: scusate, che è sta storia che voi non sapete gestire i diritti dei consumatori? Perché almeno deve avere un danno economico su questo, e il danno economico lo fai solo con i rimborsi, se no abbiamo scherzato. Grazie anche a Fabio Pavesi. Andiamo sul GR24, poi la borsa, oggi pochi spunti, l'ipotesi di una voluntary anche per il contante nascosto, non sull'uso del contante, per il contante nascosto, e un esempio concreto di cosa si intenda dire per investimento in formazione e innovazione sfruttando la legge e mettendosi anche assieme. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa oggi giornata veramente priva di spunti, domani c'è la Federal Reserve, l'attesa è tutta su questo, l'euro su dollaro è arrivato anche a 1,20, adesso 1,1986, e vi dovrete accontentare di me. Brembo più 2,16, ancora spinta come Fiat Chrysler più 1,20% dalle ipotesi di un andamento del settore auto migliore delle attese. La novità vera oggi è Piaggio, dopo l'accordo annunciato di cui parlavamo in apertura con la cinese Foton Motor per produrre veicoli commerciali a quattro ruote. Il titolo ha guadagnato parecchio, ha chiuso in rialzo del 5,45% ai massimi da due anni, 2,63 euro. L'azione tra chi è andata bene, oltre a Brembo, Piaggio e Fiat Chrysler, anche Bipper Banca più 1,90%, A2A più 1,90% anch'essa, e Case New Holland più 1%, e Steam Microelectronics più 0,90%. Fronte opposto invece, il resto cresce poco. Il fronte opposto è rappresentato da un lato Telecom Italia, meno 1,80%, Mediaset meno 1,50%, scende di nuovo sotto i 2,90 euro, la prossima settimana è attesa la semestrale. Per quello che riguarda il lusso, Moncler scende meno 1,20%, c'è un report di Morgan Stanley che dice insomma di prendersi una pausa sul titolo, ha influito. Poste Italiane meno 0,90%, Unipol meno 0,60%, Ferragamo meno 0,50%. E su Ferragamo, insomma, il titolo ha perso, Salvatore Ferragamo ha perso il 5% in una settimana. Molti osservatori ritengono che la fase di transizione del gruppo non sia ancora conclusa e sia ancora abbastanza lunga. Tra i migliori e peggiori in assoluto, Landi Renzo più 13,80%, Alerion più 12,15%. Qui c'è l'obbligo di OPA tardiva a 2,90 euro, imposto dalla Consob, il titolo è a 2,86 euro. Fope più 11%, Invest più 10,20%. Fronte opposto, Visibile Editore meno 9,20%, Gruppo Green Power meno 7,80%, Innovatech meno 7,30%, Netweek meno 6,20%. Vediamo di capire quello che state stando, molte reazioni anche di carattere politico, visto Bersani che dice è un condono ai riciclatori di denaro. Che cosa è questa proposta, ancora diciamo non scritta, un'ipotesi di studio di cui oggi ha scritto Sole 24 Ore, una nuova voluntary sul denaro contante, cioè uno potrebbe chiamarlo un condono. Allora, e soprattutto come si arriva a una stima di 150-200 miliardi di euro in contanti che gli italiani avrebbero tra casse di sicurezza e altre forme di di conservazione, anche il gruzzoletto sotto il materasso, per capirci. Nulla a che fare con le normative sull'utilizzo del contante, lo dico chi mi sta scrivendo al 349-238-6666. Allora, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sei tu che ne hai scritto oggi. Come dovrebbe articolarsi questa norma, con che obiettivo e come la si può mettere a riparo dall'idea che possa andare a agevolare anche il denaro frutto della malavita, perché è inutile girarci attorno. Parliamo del contante che gli italiani hanno tenuto, depositandolo, proprio tenuto fisicamente, ma il rischio è l'altro. Prego. Assolutamente sì. Naturalmente stiamo parlando di un contante frutto di evasione, cioè che non è mai stato dichiarato. Certo. Questo è la base di partenza. L'ipotesi che era circolata era quella di provare a ipotizzare quello che non era stato possibile fare l'anno scorso, cioè un'ipotesi di una imposta forfettaria per poter sanare questo denaro oggetto dell'evasione. Diciamo che un po' più vicino alla falsariga del vecchio scudo fiscale che della nuova voluntary disclosure, per la quale invece le imposte vanno pagate al 100%. Questo va sottolineato. Al tempo stesso l'ipotesi era quella che questo denaro oggetto di emersione poi dovesse essere in qualche modo vincolato. Erano circolate alcune proposte, si stava ragionando anche in Commissione Finanze alla Camera, se ad esempio destinarlo a dei titoli di Stato, se fare una sorta di social bond o addirittura delle forme obbligazionarie che in qualche modo convogliassero quel tipo di emersione verso l'economia reale. Però, come dicevi giustamente tu, le perplessità sono molte, in primo luogo perché un'operazione del genere deve poi scontrarsi con la provenienza di quel denaro, che può essere un denaro di fonte illecita, quindi malavita organizzata, che può essere un denaro frutto di riciclaggio. Quindi qui c'è uno snodo fondamentale, cioè chi attesta e come attesta che quel denaro non è frutto di illeciti, non solo ovviamente. Cioè, per essere esatto, è molto esplicito, un conto è l'illecito tributario. Io ho da parte migliaia di euro che non ho mai dichiarato al fisco, e questa dovrebbe essere l'ipotesi di questo condono, volontari, per me è la stessa cosa. Comunque, altra cosa, se le migliaia di euro che ho in contanti da parte sono frutto di spaccio, racket e via così, no? Estorsione. È un po' diverso, perché nel primo caso ci sono un reato fiscale, mancata dichiarazione al fisco, nell'altro hai anche reati penali, no? Per cui, assolutamente sì, e magari nella mancata dichiarazione non è detto che ci sia un fronte di penale tributario, questa è semplicemente un'omissione amministrativa, se non si superano le soglie del penale. Il discorso sta proprio qui, ed è proprio in questo, intorno a questo concetto, che si sta un po' scatenando la polemica politica. E anche però va registrato nelle ultime ore che anche la stessa ipotesi di riaprire in questo modo starebbe registrando delle forti frenate, non solo negli ambienti della maggioranza più contrari, ma anche all'interno probabilmente già anche all'interno dell'esecutivo. È chiaro che in questo momento la manovra è un po' un lavoro in corso, un cantiere in cui si fanno valutazioni su alcune misure, sulla loro attuabilità, magari alcune vengono anche lasciate trapelare proprio per capire la reazione, la resistenza, certo. Esatto, capire come si annacci per vedere di nascosto l'effetto che fa. Però qui il problema di fondo, e lo sottolineava anche ieri il procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Greco, in un convegno sulla lotta all'evasione, è che c'è una mole enorme di contante che è ancora depositato nelle cassette di sicurezza, che è ancora magari ancora detenuto all'interno delle abitazioni. La stima a cui facevi riferimento tu parte da una vecchia stima di Banca d'Italia e in qualche modo tiene conto di quelle che possono essere state le movimentazioni di contante. Quindi c'è questo problema dover sbloccare questo denaro e rimetterlo nel circuito produttivo. Però il limite è vero, e che si tratta appunto di un riutilizzo di denaro che non può essere frutto di attività criminose, altrimenti si in qualche modo delineerebbe una grossa formula di riciclaggio. Quindi bisogna stare molto attenti. C'è un problema che quel denaro di fatto resta inutilizzato e potrebbe essere in qualche modo andare a finanziare Allora, il diavolo si nasconde nei dettagli in questo caso, cioè se tu fai un'operazione in cui poi io vengo alla luce e allora scoraggi, diciamo, la malavita, perché comunque c'è anche un accertamento e un conto. Se invece le maglie sono troppo larghe, stai favorendo la pulizia di denaro, è inutile girarci attorno, e questo obiettivamente sarebbe inaccettabile. Ancora aggiungo che non c'entra nulla l'utilizzo, lo ripeto, del denaro contante. Mi fa l'esempio un ascoltatore, ma se io vado in banca, ritiro 5.000 euro e me li metto sotto il materasso, ma quelli sono fatti tuoi, nel senso che il denaro è assolutamente visibile. Non è questo il problema è chi ha somme di denaro, anche ingenti, fatte in nero, cioè non dichiarate al fisco, in contanti, e che tiene per vari motivi, per non apparire, o perché sono frutto della malavita e quindi della criminalità più o meno organizzata, e non le fuoi, le tieni nascoste, capito? Non se tu prendi e vuoi tenerti i contanti in casa. Questo non è su questo che si va a fare l'indagine o eventualmente un condono. Grazie intanto a Giovanni Parente, andiamo adesso sul traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presento Focus Economia. Soy el fuego que... risultati sintetici in termini di PIL, di produzione industriale, di clima di fiducia, di occupazione. Sono risultati secondo me molto positivi, ma come non smetto mai di ripetere, siamo solo all'inizio di un processo che ci deve riportare non solo a dove eravamo, ma anche meglio. Abbiamo queste grandezze, quasi recuperato la distanza rispetto alla crisi, ma siamo ancora lontani rispetto al mondo pre-crisi. In effetti l'economia italiana ha percorso un processo complesso non solo negli ultimi 8 anni della crisi finanziaria in senso stretto, ma negli ultimi 20 anni di irrigidimento strutturale di molti dei meccanismi che guidano un'economia. Quindi bisogna fare molti più passi avanti, non c'è assolutamente spazio per sentirsi soddisfatti. Soy el fuego que... Così il ministro Padoan, dicevamo, il quale ha anche aggiunto che il sistema bancario tedesco non è avanzato, è elefantiaco. Devo dire che non è molte volte, non sentiamo spesso un ministro dell'economia criticare in questo modo il sistema bancario tedesco. Non rappresenta quindi un esempio a cui guardare nel definire il nuovo modello di banca che le banche italiane devono definire. Questo nel giorno in cui appunto l'ABI ricorda come il livello degli NPL, dei non performing loans, si è sceso a livelli più bassi da 2 anni a questa parte, è calato del 25%, anzi scusatemi, da 4 anni a questa parte, 2013. Devo ancora una risposta a alcuni ascoltatori sul... Intanto è un'ipotesi quella della voluntary sul contante illegalmente detenuto. Non c'entra niente, mi scrive uno scuotore, ma se io vendo un appartamento e prendo 100.000 euro sarò libero di tenermeli a casa senza metterli in banca. Certo che è libero, lei su questa transazione paga le tasse, è tutto in chiaro. Se lo vende in nero è un altro discorso, a parte che lo vedo un po' più difficile. Ma insomma, stiamo parlando non del denaro tenuto in banca o tenuto da altre parti, ma del denaro contante che non risulta a nessuno perché è frutto o di evasione fiscale o peggio ancora della criminalità organizzata, quindi comportamenti illeciti non solo sul fronte, diciamo, fiscale e tributario. Dicevo che la parte che riguarda la manovra e il credito d'imposta, molti mi stanno scrivendo sul credito d'imposta proposto da Calenda. Calenda ha detto oggi che lui ha dato abbastanza per certo l'accesso al cosiddetto credito d'imposta su formazione 4.0. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che solo alle spese relative ai costi del personale che ha sostenuto corsi di formazione e pattuiti attraverso accordi sindacali. Il tema è lì sulle seguenti tematiche: vendite, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione. vuol dire che sugli investimenti incrementali, fatto 100 quello che hai investito nel 2017, avrai, se spendi 120 in queste tipologie, quindi spese relative ai costi del personale e per corsi di formazione, con un focus su almeno una tecnologia industria 4.0, cioè se tu hai fatto il corso di formazione su altro, no, e pattuiti attraverso accordi sindacali su queste, sulle seguenti tematiche, avrai per la parte incrementale un credito d'imposta, e anche questo dovrebbe servire nel momento in cui stiamo commentando nei primi sei mesi ordinativi in aumento del 9% e grazie anche agli incentivi 4.0. Qualcuno mi sta chiedendo se dagli Stati Uniti arrivino notizie di carattere economico su nell'intervento di Trump all'ONU. No, l'intervento è stato al 90% di temi tra la politica estera e il ruolo dell'America, sia America First e il ruolo dell'America nel nuovo ordine o disordine mondiale. Qualcun altro mi chiede invece perché non abbiamo commentato l'indice di fiducia della Nielsen. Faccio volentieri, era una notizia già in calendario, perché è un indice che ogni tre mesi va a misurare la fiducia dei consumatori italiani e ha segnato nel secondo trimestre 2017 un incremento di 3 punti percentuali rispetto al secondo trimestre del 2016. Cresce, secondo l'indice, la propensione all'acquisto al 22%, ma la prima preoccupazione degli italiani resta il posto del lavoro per il 17% degli intervistati. E l'altro fattore critico è la percezione del superamento della crisi, e qui lo riscontriamo ogni giorno con i nostri ascoltatori. Per l'83% degli intervistati, era l'85% nel 2016, l'89% nel 2015, quindi sta calando, ma è una cifra ancora altissima, una percentuale ancora altissima. Non si è ancora usciti dalla recessione, non si è tornati ai livelli pre-crisi, non si è usciti dalla recessione, e solo l'11% ritiene che se ne possa uscire nell'arco di un anno. Tant'è che la stessa Nielsen dice che si è in presenza di una ripresa a macchia di leopardo che non coinvolge le famiglie più povere, le aziende più deboli e il mezzogiorno. È un'ampia fetta del paese che non sta partecipando alla ripresa economica. È un fenomeno che si registra non solo in Italia ma in tutto l'Occidente, e devo dire che se uno poi va a scorporare i dati anche su disoccupazione e occupazione, si accorge come nel nord del paese i livelli siano tornati vicini al 2008, al pre-crisi, vicini. Nel centro così così, al sud ancora non ci siamo, all'interno poi con le differenze sulle varie comparti e categorie produttive. Avevo promesso un intervento, non ce la facciamo oggi, non voglio restringere una esperienza così bella, poi spero domani capirete, anzi domani no, potremmo farlo giovedì, capirete il perché. E intanto è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Brisoni un augurio di buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.